Allora iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti alla prima di una numerosa e nutrita serie di conferenze che rientrano nel nostro vasto programma intitolato Dasti all'Europa, itinerari della memoria per uno sguardo al futuro. Come lo scorso anno, a corredo delle mostre che si tengono qui e al Museo Diocesano San Giovanni, ci sarà una serie di conferenze che potete appunto vedere sul prospetto che vi abbiamo messo sulle sedie. Sono tutte legate al tema, legate anche alle opere esposte, al luogo appunto dove le conferenze vengono anche fatte. Infatti quelle che poi si terranno al Museo Diocesano San Giovanni avranno temi più specifici legati appunto al museo e al patrimonio archeologico del museo. Quest'anno, come avevo detto alla presentazione della mostra, abbiamo puntato tantissimo sui giovani, sia per quanto riguarda la collaborazione con le scuole per l'alternanza scuola-lavoro, ma anche per le conferenze che, soprattutto nella biblioteca del Seminario Vescovile, si tengono. Perché le tre conferenze appunto che iniziano questa sera hanno come protagonisti dei giovani studiosi molto molto bravi e che hanno studiato con molta attenzione le nostre fonti, i nostri documenti. La prima di queste è appunto la dottoressa Simonetta Doglione, che vi presento questa sera. Ha un lungo curriculum, pur essendo così giovane, ma lo riassumiamo dicendo che appunto Simonetta è dottoranda in filologia italiana presso l'Università degli Studi di Ferrara, con un progetto che prevede la realizzazione dell'edizione critica del memoriale di Guglielmo Ventura, che è quello appunto nella bacheca a sinistra della porta d'ingresso che abbiamo appunto esposto. Durante gli studi magistrali all'Università degli Studi di Torino, presso la quale è ora cultrice della materia in filologia della letteratura italiana, si è occupata appunto di Medioevo ed è stata coinvolta dal docente Donato Pirovano in alcuni progetti danteschi. E grazie a questa collaborazione ha curato due mostre molto importanti, la prima, Più splendon le carte, Dante dal tempo all'eterno, che si è tenuta alla Biblioteca Reale di Torino nel 2016, e l'altra, che si è tenuta a Roma, Palazzo Montecitorio, intitolata L'alta fantasia di Dante. Per queste mostre ha curato quindi non solo l'allestimento, ma anche l'apparato didascalico e le schede del catalogo. Poi si è occupata anche di un progetto dantesco per le scuole, sempre in ambito filologico. Poi i suoi interessi sono veramente a tutto tondo, perché io l'ho conosciuta appunto in biblioteca e quindi ho appurato come appunto i suoi interessi vadano dalla storiografia proprio allo studio della lingua, del dialetto. Ha fatto studi sulla Repubblica Stese e anche studi relativi alle formelle del Museo Diocesano, quindi appunto che sono presenti nuovi ritrovamenti anche lì. E poi attualmente si dedica, oltre appunto agli studi, all'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Ho citato qui soltanto il memoriale di Guglielmo Ventura, perché effettivamente è stato oggetto della sua tesi e adesso del suo dottorato. E quando appunto nelle varie volte in cui ci siamo viste per questi studi, è capitata in biblioteca nel momento in cui noi abbiamo reperito nell'archivio del Seminario Vescovile un insolito libretto, che è anche esposto sempre nella stessa bacheca, molto curioso, che tratta appunto di un viaggio di cui adesso vi parlerà lei. E allora mi è venuta l'idea, ho detto, ma te la senti di trascriverlo, di studiarlo un po', visto che insomma è di interesse locale, però è curioso. E naturalmente lei, col suo grande spirito di dedizione, la sua precisione, anche proprio la sua voglia di fare, perché è veramente brava in questo, ha accettato subito, e quindi oggi ci illustrerà che cosa ha scoperto. E sono molto curiosa, perché anch'io so veramente poco e non vedo l'ora di ascoltarla. Grazie Simonetta e buon ascolto a tutti. Grazie a te. Allora, io inizierei per... grazie a Deborah per questa bella presentazione, sono molto contenta di continuare a collaborare sia con te che con Stefano. Allora, Tanti modi di viaggiare è un titolo che ha una grande potenza evocativa, sia per noi e in particolare per me, tanto più perché è inserito all'interno di un'ottica europea. E in effetti ci sono davvero tanti modi di viaggiare, non solo perché si possono percorrere degli itinerari diversi, quindi con mete finali diverse, ma anche perché cambia quello che spinge un uomo a intraprendere un viaggio, quindi a scegliere quella meta, anche per quello che può rappresentare quella meta in quel momento per lui. E le memorie di viaggio, quindi, di conseguenza scelgono di farci vedere solo una parte del loro autore. E per questa mostra, appunto, mi sono occupata di due esperienze molto diverse tra loro, sia nel tempo che nello spazio che nelle motivazioni, ma comunque tutte accomunate dal passaggio attraverso il Piemonte. La prima, che è appunto strettamente legata al successo della cosiddetta Via di San Gilles, che potremmo definirla una strada di casa nostra, che però si inserisce all'interno delle traiettorie di pellegrinaggio europee, ed è l'esperienza di Guglielmo Ventura. E di Guglielmo Ventura vedremo questa sera il ruolo dell'uomo storico, cioè dell'uomo mercante, dell'uomo viaggiatore, cosciente della realtà in cui si muoveva, e dell'uomo pellegrino. E la seconda memoria invece è racchiusa appunto in questo quadernetto di viaggio, di cui cercheremo di conoscere i tragitti, l'autore e la famiglia di provenienza. Ora, per parlare della Via di San Gilles dobbiamo andare indietro nel tempo, almeno fino al 1987, anno in cui, con la Dichiarazione di Santiago, l'Unione Europea ha tracciato le linee guida del primo itinerario culturale europeo, che è appunto il Cammino di Santiago de Compostela. E questo progetto è stato ideato per creare dei percorsi fisici che sottolineassero il patrimonio culturale e storico comune a tutta l'Europa. Perché però creare degli itinerari fisici esplicitamente europei? Perché secondo gli autori l'intreccio di questi cammini lungo nazioni, regni, ducati e territori diversi rivelava quel qualcosa, e qua cito proprio le parole di questi studiosi, che era fondamentale e condiviso nell'identità dell'uomo europeo. Quindi tracciati che contenevano un'identità locale, ma soprattutto un'identità europea ante litteram, hanno contribuito a disegnare il continente, investendo i cammini di pellegrinaggio del ruolo di spazi di libera circolazione di persone, quindi anche di saperi e di idee. L'idea però dell'Unione Europea non era così nuova. Anzi, proprio perché erano stati i primi pellegrini, cioè quelli che avevano creato loro stesso le strade di pellegrinaggio, ad avere per primi la piena coscienza della portata europea di questi collegamenti. Un esempio è questa immagine, che è la facciata esterna della cosiddetta Casa degli Affreschi, che si trova presso il Colle del Moncinisio, che ha da sempre avuto, vedremo, un ruolo cruciale nel passaggio verso il Piemonte. Ed è una locanda, era la prima locanda che i viandanti trovavano sulla loro via quando oltrepassavano il colle e giungevano sul territorio italiano. La particolarità di questa Casa degli Affreschi è il fatto che, come potete vedere, sulla parete esterna ci siano dei dipinti che raffigurano gli stemmi di molte città e ducati o regni, a seconda della provenienza, da cui provenivano i viandanti. E questi affreschi risalgono al 3-400 e all'interno ci sono dei dipinti anche più antichi. Quindi possiamo immaginare come l'uomo già del 200 avesse piena coscienza del fatto che questi cammini fossero europei, cioè che giungessero persone da tante parti diverse. Comunque, il programma dell'Unione Europea ha avuto un grande successo, è stato ampliato fino a toccare più di 50 paesi d'Europa e ha incluso nel 1994 anche la Via Francigena, che, come sapete, passa per un buon tratto anche su territorio italiano. Ora, tra i percorsi della via Francigena compare anche la cosiddetta via di San Gilles, che dirige i suoi passi proprio su territorio astese. In un mio prossimo lavoro, che sarà pubblicato poi sul Platano, ho cercato di capire da dove passava questo cammino di San Gilles e quanto fosse antico e conosciuto, basandomi su alcune testimonianze. Allora, questo cammino è una delle due strade che si possono percorrere, che dal Moncenisio scende verso la pianura. Infatti il Moncenisio, sebbene sia stato usato anteriormente anche come alternativa al Gran San Bernardo, nel corso del XII secolo fu sempre più utilizzato. E questo perché uomini, soprattutto mercanti, si spostavano lungo questo passo per raggiungere le fiere della Champagne, in particolare nel XII secolo cominciarono a essere sempre più un gran numero. E la scelta del passo del Moncenisio non era solo giustificata da alcune questioni geografiche, ma anche dal fatto che venisse comunque considerata la via preferenziale per giungere in Francia. Da questa strada di San Gilles, dopo aver oltrepassato il Moncenisio, infatti si giungeva a Torino. E da Torino si oltrepassava il Po, quindi passando sul del Po, si toccavano alcune città che all'epoca erano dei paesi, come per esempio Chieri e Villanova, e si giungeva ad Asti, seguendo un percorso che era già più o meno simile a quello dell'antica via Flavia, che era già utilizzata dai Romani. Della via di San Gilles ci sono tre importanti testimonianze, una per ogni secolo di sviluppo del fenomeno del pellegrinaggio. La prima risale al 1154-1160 ed è il racconto di un viaggio che ha compiuto un abate islandese che si chiamava Nicolas, che ha lasciato la sua inospitale terra natia per giungere in pellegrinaggio a Roma. Ora, questo abate racconta delle sue peripezie dall'Islanda fino in Italia e quando deve narrare come ha oltrepassato le Alpi, dice di avere a disposizione due diverse strade. La prima, che è quella che lui in effetti ha percorso, che passava per il Gran San Bernardo, e la seconda, che lui descrive, che anche se non ha percorso in realtà, che era quella appunto per il Colle del Moncenisio. Quindi sappiamo che a metà del 1100 questa strada era già percorsa e conosciuta. Un secolo più tardi, Monsieur Rigaud, che era l'arcivescovo di Rouen, venne indotto dal Papa a recarsi a Roma, siccome era stato appena nominato arcivescovo, e documentò il viaggio di ritorno compilando un diario in cui si leggono, in latino che ora non vi so citare, con le date a fianco alcune tappe, tra cui compaiono proprio Cortemiglia, Asti, Torino, Susa e poi il passo del Moncenisio. Un secolo dopo, a metà del 1300, Monsieur Beuny, che era invece un ricco mercante e banchiere di una cittadina della Bretagna, aveva intrapreso a sua volta la via dalla Francia verso Roma perché voleva partecipare al giubileo del 1350. Era indotto da cause personali perché aveva perso due figli e la moglie durante un'epidemia di peste, quindi probabilmente anche per ragioni di fede voleva andare e raccogliersi in preghiera a Roma. Anche lui ci lasciò un diario di viaggio e anche nel suo diario di viaggio troviamo le tappe che ora noi conosciamo, quindi Susa, Moncenisio, Susa, Torino, Moncalieri, Villanova, Asti, Felizzano, Alessandria, Vivia, andare giù. Quindi nel Medioevo la via di San Gilles era conosciuta e utilizzata, io credo almeno dal 1100, e aveva più o meno questo percorso che voi vedete ora. Ho lasciato volutamente l'indicazione della durata, delle ore del percorso, perché noi ora siamo abituati a fare dei viaggi in cui percorriamo molti chilometri, in realtà in pochissimo tempo, quindi per noi è molto più importante la meta rispetto al tempo che si percorre. In realtà partire in pellegrinaggio, attraversare questi territori, significava accettare di seguire una strada e di percorrerla per moltissimo tempo, quindi dovevano essere dei viaggi molto studiati che si dovevano ancorare a dei luoghi a disposizione dei viaggiatori. Quindi la via di San Gilles si configura come un troncone della più nota via Francigena e probabilmente questo troncone si era parzialmente disarticolato dalla via Francigena proprio perché poteva passare lungo le rotte dei traffici commerciali che dal porto genovese risalivano l'entroterra verso le montagne, procedendo quindi sul territorio astese. Tra l'altro, quella stessa via era utilizzata anche dai pellegrini che passavano per l'asse Cordarsh, Cuneo e Genova, per poi giungere in Lettonia sulla Francigena. E infatti non è un caso che parliamo di traffici commerciali che avrebbero giustificato la via di Saint-Gilles, perché in effetti Guglielmo Ventura, come forse ben sapete, fu mercante di spezie. E quando Ventura era poco più che un ragazzo, lui era nato prima del 1250, quindi sto parlando degli anni 60-70 del 200, i toscani e i lombardi cominciarono a frequentare assiduamente i mercati d'Europa e soprattutto le fiere della Champagne. E una delle due strade percorribili che potevano usare i mercanti assesi e i mercanti lombardi in generale era proprio questa. E quindi non ci dobbiamo sorprendere che proprio intorno a città fiorenti come Asti i passi dei mercanti si mescolassero con quelli dei pellegrini. E non è un caso quindi che Guglielmo Ventura lasci traccia nel suo memoriale di entrambe le esperienze di viaggio, dedicando cioè una serie di capitoli ai viaggi che compì in alcune città lombarde e narrando invece in un intero capitolo la sua partecipazione al giubileo del 1300. Ora, dai miei studi sul memoriale ho potuto constatare che nel testo Guglielmo ha creato delle specie di raggruppamenti di capitoli che potevano avere in comune o lo stesso argomento oppure potevano essere legati l'uno all'altro con una successione di tipo logico. Ora, un caso di questi è appunto un ciclo narrativo che è interamente riservato alle lotte tra i Guelfi e i Ghibellini. E le lotte tra i Guelfi e i Ghibellini avevano investito praticamente tutta la Lombardia ed erano scoppiate in una fase particolarmente delicata dell'evoluzione comunale in Italia. E infatti in quel momento, diciamo a partire dal 200, la civiltà comunale era caratterizzata già da lotte tra città e città, lotte tra i comuni e i loro territori e dissidi civili dovuti a un certo stadio di irrequietezza cittadina e spaccatura dei gruppi dirigenziali. Asti era sorto come comune libero fin dal 1095, quindi aveva una lunghissima storia di indipendenza. E per più di tre secoli, grazie proprio allo sviluppo scaturito dalla fitta rete di commerci in tutta l'Europa, si era rivelata una delle entità politiche ed economiche più importanti dell'Italia nord-occidentale. Ed era uscita più di una volta vincitrice, per nostra fortuna, sui signori confinanti che cercavano variamente di assoggettarla. Sto parlando di signori come il Marchese di Saluzzo o il Marchese del Monferrato o gli stessi Savoia. E quindi Asti, tutto sommato, per tre secoli era rimasta una solida roccaforte del ghibellinismo piemontese, indipendente sia dall'impero sia dalla Chiesa. Finché proprio le lotte intestine tra Guelfi e Ghibellini avevano costretto il comune a chiedere aiuto e intervento ai signori stranieri che poi avevano messo fine alla sua indipendenza nel 1312. E questo era ciò che Guglielmo vide nella sua casa e quello che lui ritrovò nei suoi viaggi in altri luoghi. Così, annotando coscienziosamente gli sviluppi di queste lotte che aveva visto anche in altre città, creò all'interno del memoriale un vero ciclo narrativo dedicato alla decadenza urbana della Lombardia. Un aspetto importante che emerge in questi capitoli, che ci dice qualcosa del modo di fare storia di un uomo medievale come il Ventura, è l'utilizzo di ricordi personali e di fonti orali. Infatti, per i cronisti cittadini come lui, un importante veicolo di informazioni e competenze è costituito proprio dall'esperienza personale. L'esperienza vissuta in prima persona assume un vero rilievo quando si fa strumento di cognizione dei fatti contemporanei. E quando lui usa le esperienze che ha accumulato durante i suoi viaggi, lo segnala apertamente con delle espressioni del tipo vidi, ibi presentem eram, is omnibus interfui, ego Guglielmo interfui et vidi et audivi, indiebus meis vidi. E quindi ci indica precisamente quando lui ci sta raccontando qualcosa che ha visto in prima persona oppure che ha ascoltato. Infatti, quando Guglielmo era in viaggio per ragioni, potremmo dire, di mercatura, cioè come un mercante che dirigeva i suoi traffici commerciali lungo tutta l'Italia settentrionale, in realtà era anche un uomo che aveva visto precipitare nel baratro della guerra civile la sua Asti e l'aveva vista perdere la sua indipendenza. E credo che sia per questo che egli, viaggiando, cercava nelle città che egli visitava, che sono molte, vedremo, gli stessi sintomi che aveva accusato Asti. Lasciatemi dire che per questo doveva essere un gran ficcanaso, andare in giro a chiedere come erano successi i fatti. E quindi non è caso che il ciclo narrativo di cui vi ho accennato si apre con un capitolo che è allusivamente intitolato Die Divisione Lombardie et multa mala et multis civitatibus, cioè discordia in Lombardia e molti mali in tante città, che è un titolo abbastanza generale che ci lascia intendere che tratterà diverse città. Il capitolo infatti prosegue descrivendo un gran numero di luoghi che egli visitò durante i suoi viaggi. Ora non sto a dirveli tutti, però visitò città come per esempio Mantova, dicendo che appunto fu a Mantova e vide delle cose simili, simili a quelle che aveva già visto nella sua patria, e in particolare narra del Tyrannum perfidum Pinamonte da Bonacolsi, che aveva preso il potere dopo una lunga serie di lotte civili. Oppure parla di città come Bergamo, che penultima civitas fuit fecit malum finem, cioè fu quasi la penultima città che fece una fine così brutta, e poi ovviamente dà ampio spazio a Asti, perché gli Astesi furono in effetti forse l'ultima delle città che fecero questa triste fine, e tutti i fatti relativi alla caduta dell'indipendenza di Asti sono scritti in questo libro. Dedica poi delle altre parole a Bologna, di cui scrive: Bonomia mei memoria, intra se multas expulsiones fecerunt et multa omicidia et ruinas usi sum facere, cioè per quanto io posso ricordare Bologna ha sempre espulso moltissimi dei suoi cittadini e ha quasi preso per abitudine fare molti omicidi e molte rovine. Questa osservazione, che sembra così lapidaria, dedicata a Bologna, è poi riassunta in chiave di chiusura di capitolo come fosse un destino generale di tutte le città della Lombardia. E infatti scrive come città come appunto Bologna, ma anche Ferrara, Modena, Parma, Brescia, Como, Piacenza, Tortona, Alessandria, Alba, Torino e Acqui, e ovviamente Assi, cioè tutte città che lui aveva visto, Semper in diebus meis it malo stato vidi et nunc sunt, cioè durante i miei giorni li ho sempre visti in un cattivo stato e ancora ora versano in questo cattivo stato. Quindi quello che Guglielmo Mercante, soprattutto maggiorente della città di Asti, vide nella sua patria come destino, non lasciò scampo a nessuna città lombarda che aveva visitato. Quindi nella sua esperienza di vita diretta, la perdita di indipendenza aveva segnato il destino comune di tutta la Lombardia. Ora, venendo invece a un altro aspetto del viaggio, cioè l'aspetto più legato al pellegrinaggio, lui dedica un intero capitolo, il 26esimo, alla partecipazione al giubileo del 1300. All'epoca Guglielmo doveva avere più di 50 anni, infatti scrive che all'epoca, quando appunto si recò a Roma, doveva avere un pochino più di 50 anni. E questa annotazione, che ci potrebbe far sorridere, in realtà è abbastanza importante, perché lui si presenta all'interno di questo capitolo come una persona che aveva innanzitutto una veneranda età, perché nel Medioevo l'età media era piuttosto bassa, si aggirava intorno ai 45 anni, ma soprattutto come una persona di larga esperienza. Ed è per questo che forse lui, dentro questo capitolo, ci mostra un'immagine di sé particolarmente multiforme ed eclettica. Una delle prime immagini che lui ci dà di se stesso è quella di un uomo curioso e ironico, che registra tutti i fatti meravigliosi fuori dal comune che lui conosceva come vita quotidiana. E infatti scrive, per esempio: Mirandum est quis pascebat viros et mulieres, qui anno illi Rome fuerunt. Cioè, è davvero da ammirare chi è riuscito a dar da mangiare a tutti gli uomini e le donne che in quell'anno si recarono a Roma, perché la quantità di persone che erano accorse a Roma, e stiamo parlando del metà del 300, quindi insomma di un'epoca in cui i grandi spostamenti di persone non erano così normali come ora, dovevano essere così incredibile. E infatti poco dopo scrive questa lunga citazione che insomma brevemente dice che uscendo da Roma nella vigilia di Natale ho visto una grande folla, una grande quantità di gente che non si poteva calcolare, e c'era qualcuno tra i romani che diceva che addirittura ci sarebbero state per Natale appunto 2 milioni di uomini e di donne a Roma per partecipare al giubileo. E addirittura lì vidi molti uomini e donne calpestate sotto il peso di altri, e anche io stesso ho evitato questo pericolo più volte. E questa immagine di uomo curioso, direi forse anche un po' impressionato da questa realtà così diversa che forse lui non si aspettava di trovare a Roma, convive con quella dell'immagine del pellegrino preparato per il viaggio. Infatti in apertura di capitolo lui parafrasa quella che era la bolla di promulgazione del giubileo, che tra l'altro dice di aver portato anche a casa, di aver inserito in copia alla fine del suo libro, e la paragrafa in modo molto interessante, molto arguto, perché crea un dialogo fittizio ovviamente tra i pellegrini giunti a Roma e la loro pontefice Bonifacio VIII. E questa immagine del pellegrino convive ancora con quella del benestante mercante nel fiore della sua attività, ovviamente attentissimo ai conti. E infatti scrive: «De pane, vino, carnibus, piscibus et avena, bonum mercatum ibi erat. Finum carissimus ibi fuit, ospitalia carissima, taliter quod lectus meus et equi mei, super fenum et avena, costabat mii turonensem unum grossum». Cioè, lì c'era un buon mercato di pane, vino, carni, pesce, avena, cioè i generi di prima necessità per un uomo che si spostava. Il fieno invece era carissimo, così come gli alloggi, tanto che il mio letto e i miei cavalli, oltre al fieno e all'avena, mi costavano un grosso tornense. Ora, il tornense è un denaro d'argento che è stata la moneta ufficiale francese più o meno fino agli anni 90 del Settecento. Tra l'altro, il fatto che lui utilizzi un verbo all'imperfetto, cioè mi costavano un grosso tornense, ci potrebbe far immaginare che in realtà qua lui non stia enumerando la spesa totale del viaggio, del pellegrinaggio, ma che stia invece enumerando la spesa giornaliera. E quindi doveva essere una spesa anche onerosa per un mercante come lui. E ora, l'attenzione per i costi del percorso, del mantenimento, ci potrebbe forse far sorridere, ma in realtà questa attenzione è una costante che si trova in tanti diari di viaggio, e non solo per avere una rendicontazione delle spese, ma anche per creare una specie di itinerario che non viene calcolato con unità di misura normale che noi siamo abituati a usare, i metri o i chilometri, ma utilizzando il denaro speso. E questa è una caratteristica che noi troviamo anche nella seconda esperienza di viaggio che ho studiato, cioè il libro delle notte di viaggio, che è appunto questo. Ora, questa titolazione, il libro delle notti, come vedete, viene dalla prima carta ed è seguita da una specificazione che identifica il quaderno con una raccolta di dati di viaggi comprendente il nome delle poste e i tragitti. Ora, quando noi leggiamo poste in questo contesto, non dobbiamo immaginare al luogo in cui qualche fortunato ancora si reca per spedire le lettere, ma si indica qua le vere e proprie stazioni di posta, cioè quei luoghi che erano adibiti alla sosta temporanea dei corrieri, delle vetture private o delle diligenze, che trasportavano variamente persone, merci o corrispondenze. Infatti poi da questo uso viene il termine che noi ora usiamo, poste. E questi luoghi erano dei luoghi fissi, in cui normalmente c'erano anche delle locande e delle stalle, ed erano infatti utilizzati per il cambio dei cavalli oppure per la salita e la discesa dei passeggeri. Infatti il quaderno è interamente intessuto di annotazioni numeriche che si riferiscono al numero della stazione di poste frequentate durante un determinato tragitto. In questo particolare, per esempio, vedete che si sta trattando di un viaggio da Torino a Vienna, e vedete che vengono enumerate le stazioni di posta complessive, e poi vengono diciamo scisse, utilizzando come perno centrale la città di Novara, e le poste che lui ha percorso da Torino a Novara e poi da Novara a Vienna. E ora, le stazioni di posta erano infatti poste col gioco di parole, nelle cosiddette strade postali, cioè le arterie principali, le strade principali che si potevano percorrere, ed erano poste sempre a una distanza abbastanza regolare, cioè di circa 8-10 miglia. Quindi in realtà segnare le poste non significava solo segnarsi così il numero di luoghi in cui ci si poteva fermare e rinfocillarsi, ma significava anche indicare la distanza tra un luogo e l'altro. E le cifre ovviamente non sono utilizzate in questo quaderno solo per enumerare le poste, ma possono anche riferirsi alle spese. In questo altro particolare, per esempio, si legge la montante della corsa, tutto 1244, cioè il totale della corsa, del viaggio, ammonta 1244, e poi il resto, che probabilmente si riferiva a quello che lui non aveva speso, del totale che aveva. E possono essere anche utilizzate per indicare i tragitti da posta a posta. E per esempio, questo è un viaggio da Torino a Milano, e vedete che le poste totali sono 11. Poi da Milano a Como le poste sono 3. Arrivati a Como si passa per il lago e si paga 4 fiorini e poi si sbarca a Riva. E tra l'altro una cosa particolare che ho notato e che si vede anche molto bene qui è che spesso l'autore non utilizza lo stesso conio di monete. Cioè, per esempio, qua compare 4 filippi, mentre qua compaiono i fiorini. E questo ci può far intendere anche i tipi di spostamento che lui faceva. Il filippo infatti era una moneta che era stata battuta a partire dal 600 dagli spagnoli, e tra il 600 e il 700 era diventata la moneta più utilizzata in Lombardia per via dell'influsso della Spagna, mentre invece i fiorini erano la moneta che era stata battuta praticamente dal Rinascimento a Firenze, che era diventata col passare degli anni la moneta principale di scambio in Europa, data la potenza dei mercanti e anche dell'influenza fiorentina. Quindi, oltre che indicare il numero di poste, il denaro speso, potevano anche indicare il tempo di percorrenza, perché poi, se voi fate caso qua, addirittura indica le ore di percorrenza che doveva mettere in conto. Ora, i viaggi riportati sono quasi tutti a cavallo. Quindi probabilmente lui, quando segna le poste, anche perché cambiava il cavallo di volta in volta. Ci sono rari casi in cui si parla di viaggi invece avvenuti in diligenza, e comunque quando questo avviene viene sempre segnato di fianco con una notazione in diligenza tot. E normalmente questi viaggi sono tutti individuali. E perché dico questo? Perché ci sono delle note, dei luoghi in cui c'è il totale della spesa, il conteggio, diciamo, che può essere di tutto il viaggio oppure di una determinata parte. E poi a volte di fianco mette una piccola sigla, CAD, che credo che significhi cada uno, cioè che a un certo punto le spese vengono suddivise tra due persone. E come forse vi siete resi conto da questi brevi frammenti, molti dei viaggi hanno come meta finale oppure partenza la città di Torino. Quindi, l'immagine che noi traiamo dall'autore, da questi dettagli, è quella di un viaggiatore piemontese che viaggiava principalmente solo, a volte accompagnato, e che aveva i mezzi per effettuare dei viaggi anche lunghi in tutta l'Europa. Ora noi abbiamo visto nella città come Milano, Torino, ma in realtà parla di grandi capitali europee, quindi non solo Roma, ma anche Vienna, Francoforte, Colonia, Londra e Lisbona, per esempio. E un altro tratto che caratterizza, forse così a una prima occhiata, questo quaderno è che l'autore avesse quasi un maniacale controllo finanziario sulle spese. E questo forse potrebbe rilevare il carattere ufficiale del quaderno, tanto più se l'ipotesi sull'identità dell'autore si rivelasse vera. Sempre infatti nella prima carta, a metà pagina, qua, c'è un'annotazione che, se dobbiamo dar retta alla mano, risale al 1747, che recita: questo libro appartiene a Monsieur Pietro Fedele Mellano. Ora, secondo alcuni documenti conservati presso l'archivio di Cuneo, e tra un attimo capirete perché ci dobbiamo spostare a Cuneo per capire l'identità di questo personaggio, e secondo un poemetto che è stato pubblicato in onore di Don Filippo Mellano, stampato nel 1778 da Bonaventura Porro a Torino, la famiglia dei Mellano, questa dal quale lui si suppone che provenga, nell'arco cronologico di nostro interesse, cioè tra gli anni 80-90 del 600 e gli anni 40 del 700, più là io non spingerei l'ipotesi perché in effetti la data che abbiamo qua è del 1747, quindi si suppone che in quel momento questo quaderno fosse già in mano all'autore, fosse già compilato almeno una parte, c'erano stati due uomini che erano stati battezzati col nome di Pietro. Il primo, che erano corrispondentemente uno zio e l'altro nipote, il che non è una cosa che ci deve insomma impressionare, perché nelle casate, soprattutto nelle casate nobili come queste, era abbastanza comune ripetere il nome, anche da nonno a nipote o da zio a nipote. Allora, il primo era il figlio del fondatore della casata, che si chiamava Bartolomeo Mellano. Bartolomeo era stato un capitano dell'esercito dei Savoia, era stato infatti al servizio prima di Don Felice di Savoia, che era il figlio naturale del duca Carlo Emanuele I, e questo è successo più o meno intorno alla metà del 600, e poi sotto il servizio diretto di Carlo Emanuele I. E proprio per i servizi che aveva reso alla casata dei Savoia, aveva ottenuto la nobilitazione della sua casata. Il secondo, invece, era uno dei fratelli più vecchi del più noto Filippo Vittorio, che è stato un esponente importante di questa casa perché è stato prima arcivescovo di Cagliari e poi arcivescovo di Novara. Quindi Pietro apparteneva a una famiglia molto ben conosciuta, che aveva un ruolo sociale ben identificato. Questa famiglia era originaria all'inizio, parlo del 300, di Entracque, ma era diventata cuneese a partire dal 400 e aveva vantato un lungo servizio in Savoia, sia a corte, c'erano molte donne di questa famiglia che erano diventate parte della corte proprio dei Savoia, e sia appunto come nell'esercito, a partire, abbiamo detto, dal capostipite Bartolomeo. E questo aveva anche reso, diciamo, la famiglia particolarmente importante all'interno dell'orbita dei Savoia, tant'è vero che poi erano anche riusciti a ottenere alcune cariche, per esempio nel Consiglio di Cuneo, ma anche alcune mansioni sociali, per esempio si erano occupati di scuole, di ospedali, quindi anche di sanità. Erano una famiglia con un ruolo sociale quindi ben definito. Quindi è lecito ipotizzare che questo quaderno sia stato compilato tra la fine degli anni del 1600 e i primi 30-40 anni del 700 da un membro dei medi ranghi militari, credo più alti che medi, Pietro appunto, come una rendicontazione semiufficiale degli spostamenti effettuati a partire dalla sede torinese. Voi forse ora vi potreste chiedere perché io ho lasciato un arco temporale così ampio, cioè dalla fine del 600 fino agli anni 40 del 700. Questo perché se voi aveste l'opportunità di sfogliare questo testo, si nota come la scrittura si sia evoluta, cioè che sia leggermente diversa dalle prime pagine rispetto alle ultime. È una cosa insomma normale questa. Se voi guardate, non so, qualche diario o qualche quaderno di quando eravate più giovani, sicuramente vi renderete conto che la scrittura subisce un'influenza non solo determinata dal momento in cui noi scriviamo quella cosa, ma proprio dall'arco temporale e dalle abitudini che noi possiamo prendere oppure perdere durante il corso degli anni. E in effetti ci sono dei tratti che rimangono sempre uguali, quindi possiamo dire che è stato sempre vergato dalla stessa mano, non ha cambiato proprietario, però ci sono alcune rese grafiche che cambiano leggermente. Quindi io credo che la compilazione di questo quaderno non sia avvenuta nel giro di pochi mesi e neanche nel giro di un anno, ma nel giro di 10, 20 o 30 anni. E che, siccome ha tutte queste caratteristiche così ufficiali, avesse proprio non solo un ruolo di quaderno personale di Pietro Fedele Mellano, ma che avesse quasi un ruolo di rendicontazione, tanto più perché lui annota con precisione, come vi ho detto prima, le spese totali oppure le divisioni e il numero di poste che riusciva a fare durante il suo tragitto. Ora, per concludere questa panoramica che ha attraversato la dimensione della memoria del viaggio a partire dal 200, metà del 200 fino al 700, una piccola riflessione sul viaggiatore. Esistono infatti due termini che sono comunemente impiegati in letteratura per indicarlo. Il primo è il termine peregrinus e il secondo è homo viator. Nonostante questi due vengano spesso usati come sinonimi, contengono una precisa differenza semantica. Se il primo indica un individuo che si sposta nel territorio esterno alla città, cioè per agros appunto, cioè per i campi, connotandolo quindi come uno sconosciuto, uno spaesato, uno straniero che proviene e viaggia verso un altrove non ben specificato, e poi questo stesso termine ha assunto in un significato, diciamo, più spirituale e religioso, quello che noi ancora oggi usiamo nella lingua italiana. Il secondo invece si riferisce al passeggero o al cursore pubblico che è stato incaricato di compiere un determinato viaggio, probabilmente seguendo anche un percorso ben definito, per impartire o portare ordini. E questa sera per noi, Guglielmo per un verso e Pietro per un altro, hanno incarnato pienamente il significato di peregrinus e il significato di homo viator, perché a tutti gli effetti per loro ci furono almeno due modi diversi di viaggiare, ed è quello che forse questa mostra cerca di dimostrare. Grazie.